Buongiorno, sono Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. E questo è il mio cammino. D'Agostino, mio cammino. Nel settembre del 1981 acquistai il 45 giri di quel racconto per potermi riascoltare quella storia ogni volta che avrei voluto. SMS al numero 333 64 67 662.

M2O. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. La radio a colori. Like a river that goes to the sea. This is the way that it has to be. Dal 27 aprile, in ogni dove, lento, violento e altre storie, il doppio CD di Gigi D'Agostino. Ora la musica c'è. Una volta un uomo mi disse che l'errore peggiore che si possa fare è quello di credere di essere vivi. Quando invece stai dormendo nella sala d'attesa della vita. minuti nel mondo che non c'è. Alle 2 del pomeriggio suona Gigio e mi piace stesso. Il cammino di Gigi D'Agostino. Tittino. Gigi Gigi Gigi D'Agostino. Pota, allora che dice che la fit fit che allora sa segne. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino. Ah ragazzi, gariata sul questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino. Ah ragazzi, gariata sul colorista. Il cammino di Gigi D'Agostino. E mi piace fesso. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Allora, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino. Questo è il cammin di Gigi D'Agostota. Questo è il cammin di Gigi D'Agostota. Allora, questo è il cammin di Gigi D'Agostota. Questo è il cammin. A ragazzi che rialza sul cronista. La scienza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente. Alla contingenza di che cazzo habla? Alla contingenza è un processo che evolve ininterrottamente. Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Sole ma non c'è.

musica allo stato puro. Il cammino di Gigi D'Agostino. Sera 5 maggio, grande raduno lento, violento del centro Italia. Dalle ore 22 suona Gigi D'Agostino. Discoteca 24.000 baci. Latina. Latina. Gigi D'Agostino. Danziamo l'amore.

dico, altre storie. Intendo dire quello che voglio dire, ma che non riesco a dire. Cioè...